La figlia di Giano Materassaio, 1616-1628. Ho respirato la polvere dei cantieri fin dal giorno in cui sono nata. A differenza di quando credono i forestieri venuti da paesi giovani senza storia, se nasci in una città così antica da presumersi eterna, non desideri conservare il passato quanto rinnovare il futuro. Fin da quando ho memoria, Roma è stata una foresta di ponteggi, crivellata di crateri. Si costruiva ovunque, dal Vaticano al Quirinale, dall'Esquilino al Gianicolo. Le strade erano percorse ogni giorno da carri trainati da buoi, che trasportavano lastre di travertino oppure travi destinate a diventare impalcature e soffitti. Dai ponteggi si levava un odore di legno e di bosco, che si mescolava a quello di umidità e putrefazione sprigionata dai muschi che damascavano i ruderi millenari. Nello stesso isolato inciampavi in cumuli di mattone e catasti di macerie. Si demoliva ovunque e dappertutto. A volte con gli stessi materiali recuperati si fabbricava. Chiese, case, oratori, strade. I potenti facevano a gara a chi tirava su il palazzo più alto, la cupola più audace. Roma cambiava faccia ogni stagione. Chi si assentava a lungo stentava a riconoscerla. Mio padre era stato via per qualche mese, prima della mia nascita, perché il conte Francesco Biscia lo aveva chiamato a decorare il salone del palazzo di Mazzano, un castello fortificato che sorge lungo l'antica via Cassia, a un giorno di cavallo da Roma. Biscia era fratello di un monsignore, chierico di camera e presidente dell'Annona, e aveva la moglie Bechina, ma amava il teatro ed era grato a mio padre per il divertimento che sapeva procurargli. Lo preferiva come attore e commediografo, ma lo apprezzava anche come pittore. Nel 1616 era ormai l'unico committente blasonato che gli fosse rimasto e mio padre non poteva rifiutargli quel servizio. Quando finalmente tornò a Roma, appena alla frezza, svolto il cantone di Via del Corso, si accorse che stavano puntellando e mettendo i chiodi di ferro sulla facciata del nostro palazzo. La prima cosa che pensò fu che se avessero riqualificato l'isola, in verità alquanto malconcia, la proprietaria ci avrebbe rialzato l'affitto e poi sfrattato. Da quando si erano sposati, lui e mia madre cambiavano casa ogni anno. Facciamo come le puttane, ci scherzava sopra mio padre, che traslocano di continuo per sembrare sempre fresche. In verità, i miei cambiavano stanza, perché non potevano permettersi un intero appartamento e ti dividevano le spese dell'affitto con altri inquilini. Ignoro quelli del periodo precedente alla mia nascita, ma ho conosciuti i successivi. Mia madre era molto selettiva e ha sempre azzeccato i pigionanti. Ricordava gli sbagli di mio padre, che invece aveva una specie di intuito malefico. Gli piacevano i tipi originali, come lui, e si metteva in casa gli artisti più litigiosi, i vermicellari più screanzati o gli stranieri più pretenziosi. Gente che solo per il fatto di essere venuta a vivere a Roma si credeva protagonista nel gran teatro del mondo e trattava lui e mia madre come comparse. Per anni, finché non abbiamo potuto finalmente vivere per conto nostro, mia madre è stata costretta a sopportare i rutti, le scorregge e le sborne di quegli estranei. Firmavano contratti di 12 mesi e allo scadere transumavano altrove con le loro carabattole, cercando solo di non allontanarsi troppo dalla strada in cui si erano ambientati. E infatti, in una città così grande, il loro mondo non era più vasto di un villaggio. Via Paolina, via Ferrerina, i Greci, i vicoli dietro Santa Maria del Popolo, i cortili di Sant'Andrea delle Fratte e dei Borgognoni. Per un pittore allontanarsi da Via del Corso sarebbe stato come varcare la frontiera di un paese straniero. Tutti gli amici e colleghi di mio padre, famosi e oscuri, ricchissimi e pezzenti, romani e stranieri, trasteverini e burgundi, monticiani e austriaci, galli, lotaringi, fiaminghi e catalani, maestri con botteghe di 20 garzoni che guadagnavano migliaia di scudi per una sola tela e lavoranti che strappavano a stento 20 baiocchi per una giornata di fatica, si accalcavano in quei pochi isolati. Si incontravano ogni giorno, sapevano tutto di tutti, alcuni erano amici, altri si rispettavano, ma i più si odiavano a morte, si diffamavano, si accoltellavano, si rubavano l'un l'altro il lavoro, gli assistenti, le amanti e le bagasce, si scagliavano contro sassi, escrementi e carciofi, però nessuno era solo. Padre Giovanni, che tutti chiamavano il Briccio, non aveva nemici. Non ha mai subito un processo, non è mai stato calunniato né ha calunniato. Non lo hanno denunciato per percosse, getto di pietre, contumelie, insulto, libello, devastazione di casa di Fontana, deturpazione di porta, visita di cadaveri, illecita pratica, furto di disegni, affissione di cartello, dati falsi, sfregio, risse, eccesso, porto abusivo di spada, arma da fuoco, rottura di gelosie. Insomma, la miriade di reati per cui vennero accusati e spesso condannati quasi tutti i suoi colleghi, per i quali il carcere era una locanda come un'altra, solo che la camera da letto aveva le finestre a grattacacio. Nemico delle risse, amico della pace, non fece mai il minimo danno a nessuno, nemmeno agli animali. Era l'epitaffio che avrebbe voluto per la sua tomba. Ma non era davvero fiero della sua verginità giudiziaria. Una volta, quando già minato dalla malattia, guardava l'uomo che era stato come se fosse un altro, mi ha detto che ciò era una prova della sua irrilevanza come artista. Nessuno l'ha mai considerato suo rivale. Perfino Merisi, dall'altero Caravaggio, che diceva male di tutti i pittori, passati e presenti, e ha attaccato brigo con chiunque a Roma praticasse la sua professione, lo ha risparmiato. Per qualche tempo si sono ritrovati nella stessa bottega di Giuseppe Cesari, a dipingere le stesse infime cose che il maestro delegava agli assistenti. Per ragioni opposte. Ad alcuni l'arpino affibbiava i fiori e la frutta perché erano troppo bravi e temeva gli potessero fare ombra, ad altri perché non lo erano abbastanza e temeva potessero diminuire il valore di un quadro se gli concedeva una figura. Mio padre, a 14 anni, trovava necessario dipingere rose, arance e melocotogne per apprendere il mestiere. Il Caravaggio, che a 22 era un pittore fatto e finito, addirittura offensivo. Tant'è che litigò col maestro e se ne andò quasi subito per la sua strada. Ma in quelle settimane non ha degnato il Briccio nemmeno di un insulto. Non ha mai imparato neppure il mio nome, sospirava mio padre. Ha capito che non sarei mai diventato un valentuomo da temere. A me però piace pensare che mio padre non avesse nemici fra gli artisti, perché la sua contagiosa allegria disarmava i malumori. Si prendevano tutti molto sul serio. Per lui invece la pittura era stato un sogno, poi una passione e infine era diventato un lavoro, la professione che gli garantiva il pane quotidiano e un posto nel mondo. Lo aveva liberato dalla prospettiva di battere tutta la vita la lana per riempire materassi e gliene era grato. Ma quando sono nato io aveva già finito per comprendere che nelle figure e nei colori avrebbe potuto esprimere se stesso. Mentre mia madre combatteva con le doglie, mio padre suonava la chitarra per distrarre mia sorella Albina. «Belle zitte graziose che avete bel musetto», cantava. «Aspettate un po' gorillo che mamò sarite spose, belle zitte graziose». Anche se la chitarra non è il liuto nella tiorba e qualunque garzone di stalla sa grattare qualche accordo, lui era bravo, come un musico di professione. Diceva che glielo avevano insegnato le zingare. Da bambino era cresciuto coi figli delle gitane del Babuino, quando ancora i romani e gli zingari sembravano gente esotica e affascinante, venuta da lontano, e non i ladri e i bari che oggi disprezzano. Giocava con quei monelli di nessuno, e nella bella stagione sgranocchiavano frutti e lanciavano noccioli rincorrendosi sulla soglia delle case. Stavano sempre insieme, e quando divampò l'epidemia di febbre se li portò via tutti, senza badare alla nazione di provenienza. Morirono i figli delle zingare e la sorellina di mio padre. Lui si salvò come un predestinato. Ma in realtà la musica l'aveva studiata sul serio con un compositore, perché un gentiluomo di Piacenza, che lo aveva sentito arpeggiare nella bottega di mio nonno, aveva creduto di riconoscere in quel ragazzino, curioso di tutto, il genio dell'armonia. Mio padre ha sempre provato persone potenti, che hanno creduto in lui senza pretendere nulla in cambio, e non è la minor dote che mi ha trasmesso. Aveva anche una limpida voce da tenore e cantava benissimo, tanto che poi divenne prefetto del coro nella chiesa di San Carlo di Lombardia al Corso, anche se quel ruolo era destinato ai religiosi. Il Briccio non si preoccupò affatto di quel dettaglio, perché non intendeva rinunciare allo stipendio di uno scudo al mese, e accettò la nomina con gioia. si limitò a indossare la tonaca da prete per dirigere il concerto. Nella chitarra, nella voce da tenore, nella canzoncina in napoletana funzionavano quel mattino con Albina, che aveva 5 anni e singhiozzava terrorizzata dalle urle che provenivano dal letto. Non vedeva nulla, perché la levatrice aveva tirato le tende del baldacchino tutto intorno al materasso, ma sentiva tutto. In seguito, quando 5 anni dopo è stato il mio turno di ascoltare le grida di mia madre che partoriva Basilio, ho compreso il terrore di mia sorella. E ho pregato che non dovessi mai anch'io soffrire così. Inoltre, quel mattino, i colpi dei martelli, lo scroscio dei calcinacci, il ritmo del piccone, il rintocco delle campane della vicina chiesa di San Lorenzo e le grida dell'olivaro e dei venditori ambulanti di aglio e insalata sopraffacevano la melodia di mio padre. Abitavamo al primo piano ed era il 13 agosto, forse il giorno più caldo dell'anno. La levatrice aveva lasciato aperte le imposte perché mia madre potesse ricevere un po' di sollievo e la carta cerata che foderava le finestre non schermava il rumore. Non l'ho fatta soffrire troppo a lungo, mi hanno raccontato entrambe, sghignazzando. Il canale era stato dragato, era il suo terzo parto. La terza femmina in 10 anni di matrimonio. Una disgrazia per qualunque altro padre. Non per il mio. Era un uomo spensierato allora il Briccio. Non si preoccupava del futuro. Si affidava a Gesù e alla fortuna. Credeva devotamente a entrambi. Le zingare, sempre quella del babuino, gli avevano predetto che avrebbe vissuto felicemente almeno 40 anni. Lui aveva preferito non chiedere cosa sarebbe successo dopo. E quel giorno d'agosto non aveva appena che 37 anni. Siccome vedeva il ridicolo in ogni cosa, lo vide anche in se stesso. Sudato, stravolto, con la chitarra in una mano, il libriccino col testo della canzone dall'altra, chino su una creatura grinzosa e rossa di 9 libbre, con una fessura tra le gambette invece dell'agognato cannello. Non valgo proprio un baiocco, Marta, ha detto la levatrice, ma anche schizzare un pischelletto mi riesce. Me lo ha spifferato lei, pettegola e sfacciata come tutte le comari che guadagnano con la natura delle donne. Del resto ci conosceva bene. Marta Briccio era sua sorella. Mio padre mi ha raccontato di avermi osservato con disincanto. Era dispiaciuto per la terza figlia femmina, ma convinto di potersi subito riscattare. Chiara, mia madre, a 27 anni gli liquefaceva ancora il sangue come la prima volta che l'aveva vista, e aveva giurato che quella napoletana, fumosella e litighina, orfana e squattrinata, ma fresca e luminosa come un mattino di maggio, sarebbe stata sua moglie. Io invece ero nera come uno scarafaggio, e ansimavo quasi mi mancasse il fiato. I bambini dell'estate non vivono a lungo. Dopo il 16 agosto è pericoloso respirare la malaria e i miasmi di Roma. Ma mio padre non poteva permettere a me e alla famiglia di un soggiorno più salubre. A Roma solo i cardinali, i nobili e le loro famiglie vanno in vacanza. 3 giorni dopo mi ha fatto battezzare nella chiesa di San Lorenzo, praticamente vuote perché il 16 agosto erano tutti appostati sui tetti e alle finestre affacciate sul Tevere e in attesa dell'inizio del pario delle barche si godevano le sgherrate dei giovanotti che si sfidavano a strappare il collo ai paperi appesi per le zampe alle fune tirate da una riva all'altra sopra la corrente. Al mio ingresso nella comunità dei cristiani nemmeno i suoi migliori amici erano venuti. Le feste a Roma sono più importanti di tutto. Si ferma la corte, si ferma la plebe, si fermerebbe pure la morte se la invitassero. Mio padre mi ha deposto con sollievo nelle braccia del sor Enea, il sarto di Imola flaccido e glabro che cuciva i vestiti a lui e a tutta la compagnia teatrale. Il sor Enea sarebbe rimasto più celibe di un frate, come ognuno era evidente al primo sguardo, e non avendo figli suoi da mantenere, avrebbe potuto lasciare un gruzzoletto alla pupilla. Questo è il motivo per cui, come padrino, non ho avuto l'onore di un laureato e nemmeno di un pittore. Il sor Enea, tutto impettito di imparentarsi con un artista che era stato nella bottega del cavalier Giuseppino Cesare d'Arpino, che era stato il favorito della buon'anima di Papa Clemente VIII Aldobrandino, mi protese goffamente sul fonte battesimale, come un agnello. Mio padre gli ha raccomandato di prendersi cura di me se gli fosse successo qualcosa. Lo devo un po' quel tarlo dei 40 anni, la scadenza si approssimava, e poi mi ha dimenticato. Si vantava di avermi preso in braccio di nuovo solo all'assunzione dell'anno seguente, dopo il mio primo compleanno. Non volevo affezionarmi a te, mi ha spiegato. Avevo già seppellito Virginia. Ha vissuto solo 10 mesi la mia prima figlia. Era delicato come un angelo. Perderla mi ha schioppato il cuore. In realtà non si è accorto di me finché non ho cominciato a ripetergli le battute delle commedie che provava a voce alta, gesticolando. E allora ha capito che capivo. Gli stavo sempre appresso, perché dove sta il briccio stava la gioia, ma lui non mi dava retta. Non era sicuro che durassi, che non fossi in tempo al sentimento sprecato. Le sue ragioni erano giuste, ma mi ha sottratto i suoi anni più felici. In quel mese di agosto del 1616, in 31 bambini siamo stati battezzati nella nostra parrocchia di San Lorenzo, 15 a giugno, 27 a luglio, 26 a settembre. Meno della metà abbiamo superato il primo anno di vita, e la metà della metà il quinto. Ognuno di noi è un sopravvissuto. La vita che viviamo non è solo la nostra. Io ho vissuto per Virginia, e poi per Rocco, per Antonia, per Giuliana. Per questo, in ogni giorno che mi è stato donato, ho cercato di non sprecare la mia occasione. A 4 anni e 3 mesi avevo già cambiato 4 case, ma gli altri traslochi li ho dimenticati. È un pomeriggio di novembre, sono alta meno di 5 palme, ho ancora tutti i miei denti da latte. Il cielo è già di piombo. Resta poco più di un'ora di luce. Sono accoccolato con la nostra gatta rossa in grembo sulle scale del palazzo accanto all'ospedale degli incurabili, dove abitiamo da 12 mesi. Un berretto in testa, una coperta di crine di cavallo sulle spalle, calzarotte di lana sulle gambe, ma le manine nude sono viola di freddo e non mi basta soffiarci sopra per scaldarle. Dalla porta spalancata dell'appartamento non proviene calore, perché il camino è spento. Sui muri, l'intonaco gonfiato dall'umidità, si è scrostato e le scaglie cadute mi si disfano tra i polpastrelli in polvere sottile come farina. Questa spina di casa dalla parte del fiume è malsana. Maledetto giorno che non ci siamo tornati. Così ripete sempre come un ritornello mia madre. E anche adesso, con la voce rotta, asciugandosi le lacrime con la manica spelacchiata della pelliccia. Sono troppo piccola per capire perché odia tanto questa casa. Mia madre mi ha affidata a mia sorella Albina perché da quando è nato Rocco è Albina che si occupa di me. Cambia i vestiti, mi lava i capelli, mi strofina la schiena, mi insegna le filastrocche e gli stornelli. Io la idolatro e la imito in tutto. Albina ha già 9 anni e le è concesso intrufolarsi nel mondo degli adulti che a me è precluso. È graziosa mia sorella, coi capelli ramati di mia madre, spiritosa e vivace come lei. Mio padre la preferisce. Non so come lo so, ma lo so. Io vorrei essere Albina, così anche a me il Briccio dedicherebbe poesie e canzoni. La amo con la stessa furia gelosa di mia madre, quest'uomo inafferrabile, con le dita macchiate di inchiostro, sempre chino sui suoi fogli, distratto, svagato, che non dorme mai, si fa chiamare in 10 modi diversi, un nome per ognuna delle sue personalità. E un giorno porta il camice da pittore, l'indomani la maschera di pantalone. Un giorno si veste da prete, l'altro affitta un cappello di velluto con la piuma rossa, perché certi banchieri l'hanno invitato a un ricevimento. È ancora bello il Briccio, a 41 anni, con un casco di capelli scuri, ricci e folti e guarnigli da fronte, il naso a vela, il pizzetto a punta, i baffetti maliziosi e gli occhi neri che sbrilluccicano come la pece. Nei miei primi ricordi, i suoi capelli sono già radi e spruzzati di grigio, e le preoccupazioni gli hanno scavato sulle guance magre 2 solchi, come l'aratro nella terra molle. Ma io lo conosco ugualmente, mio padre da giovane, prima di me. L'ho visto in un ritratto inciso dentro un suo libro e ho capito perché mia madre, corteggiata da tutti, ha voluto proprio il figlio del materazzaro. L'avrei voluto anche io. Quel pomeriggio, però, Albino si è limitato a ordinarmi di restare sulle scale, di non intralciare l'operazione e di non muovermi per nessuna ragione. Quando tutto sarà pronto, mi chiameranno e ce ne andremo. La nostra nuova casa sarà lussuosa come quella di 2 principesse, ma io sono stufa di intrecciare i capelli alla mia bambola di pezza. Non ho nulla da fare e mi annoio. Il tempo scorre lentissimo. Mi sembra di essere seduto in pizza allo scalino da sempre. Giacomo, il brufoloso garzone di mio padre, è un facchino grosso come un bufalo, entrano leggeri nell'appartamento e ne escono ansando, curvi sotto il peso delle casse dei libri. Il facchino impreca, che cazzo se ne farà mai sto cristiano di sta cartaccia, pure solo a incartare il pesce. Mia madre mi ha insegnato a sussurrare Dio ti perdoni e a farmi il segno della croce quando qualcuno si lascia sfuggire un gesto osceno o una parolaccia. E la parola cazzo richiede doppia croce perché evoca lo strumento del peccato. La conosco perché mio padre l'ha imparata alla chiesa di San Carlo. Sostiene sia l'unico contributo che i lombardi hanno apportato alla bella lingua italiana. Eseguo sussurrando svelta, Dio ti perdoni. Mi segno spesso con la croce, perché purtroppo il bel linguaggio forbito e il comportamento educato a Roma sono un privilegio della gente che abita altrove. Io non l'ho ancora incontrata. Albina tallona il facchino, preoccupata che sfondi il cesso di vimini con la sua roba da cucito. Aveva iniziato a ricamare un bavarino a Rocco, ma siccome a lui non serve più, lo trasformerà in un colletto per me. Il facchino si arresta bruscamente, si volta e le fiata qualcosa sul viso. Albina arretra, rossa come la buccia di una mela. C'è qualcosa di sbagliato nella vicinanza di Albina a quel bufalo, nello sguardo che lui le inchioda sul corpo fasciato nell'abitino rosso. Ma non saprei dire cosa. A 9 anni, Albina è meno libera di me. Io posso giocare sul pianerottolo, mia sorella invece non deve più affacciarsi neanche alla finestra. Una delle prime cose che ho imparato è che la finestra per una femmina è la porta dell'inferno. Mia madre risale affannata dalla strada, intercetta lo sguardo arrazzato del facchino, afferra Albina per il polso, la trascina in casa. Sento lo schiocco dello scapezzone sulle sue guance pure, con un muro spesso e un braccio a dividerci. Fisso la porta, in attesa che ne escano mia madre e mia sorella rinconciliate. Invece dalla porta esce una sedia. Il cuoio dell'imbottitura è crepato da un taglio lungo come la mia gamba. Finché ero in casa nostra, coperto da un cuscino, nessuno lo sapeva. Ora tutti potranno vedere lo sbrego. Istintivamente mi alzo e rincorro giù per le scale quella sedia ferita, come se potessi proteggerla. I nostri mobili sono tutti in strada, fradici e neri sotto la pioggia. Il facchino li issa sul carretto senza fatica e senza riguardo. Per la prima volta si forma nella mia mente un pensiero coerente, più doloroso dello schiaffo di mia madre sulla guancia di Albina. La nostra casa è tutta lì, sul ripiano di un carretto che basterà un somaro macilento a tirarlo. Abbiamo pochi mobili. I vicini scopriranno che siamo poveri. È la seconda cosa che ho imparato. Gli abitanti di Roma si dividono in quattro categorie. I ricchi, i comodi, i poveri, i miserabili. Noi ci consideriamo comodi. Me l'ha detto mia nonna Isabella, la madre sempre gaia di mia madre. Me lo ha ripetuto mio nonno Giovanni Battisti, il padre avaro di mio padre. Sono gli unici nonni che ho, uno all'opposto dell'altro. Perciò il loro accordo vale quanto una verità inconfutabile. Mio padre però la pensa su tutto a modo suo e contesta questa classificazione universalmente accettata. Mi ripete sempre di essere ricco, anzi straricco, arciricco, perché nessuno, nemmeno un papa, può essere mai più ricco di un artista. Ma in quel momento penso che il mio adorato padre sia un baro e che mi imbroglia. Facciamo solo finta di essere comodi. Siamo poco più che poveri.